Sono al telefono con Filippo Calomenidis. Buongiorno Filippo e benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Partiamo appunto con il parlare del tuo libro, La direzione è storta, e partiamo da una scelta che mi ha colpito particolarmente, quella di una scrittura in versi. Come mai? Diciamo che la scelta nasce dal fatto che in questo tempo è necessario trovare delle parole appropriate per rompere il silenzio, delle parole più autentiche, più distillate possibile, più penetranti possibili, e soprattutto è fondamentale trovare delle parole che vengano da un pensiero che viene dal cuore, come direbbe Jung. Quindi alla fine è nato proprio quasi spontaneamente il discorso di scegliere il verso piuttosto che la prosa, proprio per trovare una asciuttezza e soprattutto una giustezza nelle parole, nel racconto. In un contesto pandemico, che è quello che descrivi tu e in cui tutte e tutte ci siamo ritrovati, in cui appunto sembra tutto perduto e la direzione è storta, come dici tu stesso dal titolo del libro, tu hai trovato nell'altruismo e nella solidarietà oltreoceano la tua via di uscita, in qualche modo? Ma io dico sempre che ci sono delle fasi della storia che sono un po' dei banchi di prova morali, dei test morali rispetto a quello che siamo, rispetto a ciò che ci circonda. Questo tempo della pandemia, che sta divenendo purtroppo endemia, per me è stato necessario cercare di trovare quella che chiamo mobilitazione civile, cioè trovare uno spazio in cui riorientare la propria vita e riorientare, per quanto possa essere forte il contributo che dà uno di noi individualmente, la vita della comunità intera, quindi dalla città in cui uno vive, dalla regione in cui uno vive, al sistema mondo intero. E credo che questa necessità di riorientamento delle nostre esistenze in questo momento sia fondamentale per uscire da una dimensione, da un sistema che è palesemente falso, distruttivo e che ci ha portato ad vivere appunto l'effetto della pandemia, che ricordiamocelo sempre, un effetto, non è il cuore del problema, è un effetto di un problema complessivo, e quello appunto di una società malata, di una realtà malata e di un sistema malato, quale ci siamo bene o male tutti adeguati, rispetto al quale siamo stati tutti bene o male complici. Quando infatti parli di Covid, ne parli non solo come una malattia, diciamo, fisica, ma come anche una sorta di virus del potere. Assolutamente, al di là delle costruzioni che ciascuno di noi può fare rispetto alle origini del Covid, questo mi interessa meno, però mi interessa sottolineare e vedere come ci siamo trovati totalmente impreparati rispetto a una polmonite virale, perché di questo stiamo parlando, dal punto di vista di organizzazione pratica, emotiva, societaria, politica, comunitaria, e le risposte che abbiamo dato sono state invece le risposte di una narrazione tutta bellica o centrata sulla frantumazione sociale. Già il fatto stesso che abbiamo parlato per mesi di distanza sociale o di distanza interpersonale, non di distanza sanitaria, la dice lunga sul tipo di approccio che abbiamo avuto e sull'impreparazione totale che abbiamo avuto rispetto a questa catastrofe. Le parole ci raccontano tanto di come una società o gli esseri umani affrontano appunto le catastrofi della storia. Assolutamente. Alla fine, tirando un po' diciamo le somme, questo libro una direzione ce l'ha o rimane storta, riprendendo sempre il titolo? Ma io credo che una direzione ci sia, e che la direzione sia, come nel libro stesso, l'incontro con gli altri, con l'altro. Non è un caso che nel libro, oltre che della mia esperienza da volontario, si parli anche appunto degli ultimi, dei cancellati, che non sono soltanto appunto nel mio libro i malati di Covid, ma sono anche, come racconto nella parte dedicata al viaggio a Lesbos, nella mia permanenza a Lesbos, nei campi di reclusione per i profughi che scappano da guerre causate dall'Occidente e che vengono rinchiusi in dei lager, perché di questo si tratta, senza utilizzare mezzi termini, proprio per dare ad ogni situazione il nome giusto, condizioni disumane. Credo che nell'incontro con l'altro, nel tentativo di liberarci tutti da una logica che è totalmente individualistica, credo che la realtà possa vedere una luce rispetto ad una situazione che era e resta, probabilmente rimarrà molto complicata. Però la cosa che posso senz'altro dire è che sicuramente in tanti hanno riorientato le loro vite in molte maniere diverse, ma tutti nella direzione appunto dell'incontro.